sulle autorità fasciste, il Fosbute viene chiuso nel 1900-1941. In lingua italiana nasce a Tesi Augusta, che è sicuramente un periodico con grandi ambizioni anche culturali, e anche qui ci sovviene il lavoro fatto da delle donne che ci ha messo a disposizione tutti gli indici, tutti gli indici. Da studiare, a mio avviso, ci sarebbe il Gazzettino, che, seppur non con un'edizione specifica per la provincia di Bolzano, però aveva un'informazione che sicuramente era l'unica alternativa alla voce ufficiale della provincia di Bolzano. Tutti i giornalisti della provincia di Bolzano vengono da fuori, in gran parte vengono da Brescia. Perché? Perché il segretario nazionale del partito fascista fu per un certo periodo, il periodo poi nel quale nasce la provincia di Bolzano, Turati. E Turati era un bresciano e quindi logicamente Turati, segretario nazionale, si avvaleva delle persone che conosceva, lo stesso Ferrandi, il Ferrandi papà, insomma, no? I figli sono tutti e due giornalisti, che lavorò a lungo la provincia di Bolzano, poi l'Alto Adige, lo stesso Ferrandi veniva da Brescia. Il tentativo che fecero i giornali trentini, compreso il giornale fascista, il Brennero, no? Il Brennero era nato, anche qua la testata la dice lunga, no? Era nato come giornale che voleva abbracciare tutto il territorio regionale. Il Brennero tenta di essere presente con propri giornalisti a Bolzano, ma alla fin fine, su impulso di Mussolini, deve chiudere questo tentativo perché il partito fascista di Bolzano non ne voleva sapere. C'è anche un aneddoto che può strappare qualche sorriso, perché il giornalista del Brennero inviato a Bolzano era un certo Gino Susat, il quale aveva, come dire, l'ambizione di essere un po' damerino, di essere elegante alla moda, e girava con i calzoni alla zuava e con i calzettoni bianchi, senza sapere, ahimè, che i calzettoni bianchi erano un simbolo della resistenza tedesca, no? Nei confronti del fascismo, tant'è vero che lungo Via Portici venne inseguito e assalito da un gruppo di fascisti che l'avevano preso per un tedesco e che ostentatamente, questo passeggiava convinto di essere il più ben vestito di Bolzano, venne inseguito e se la cavò per miracolo dichiarando la sua fede fascista e spiegando chi era, facendo vedere i documenti che aveva con sé. In quel periodo nasce anche la stazione radiofonica, né? Che è l'EIAR, che nasce nel 1928. La prima radiocronaca è tenuta in occasione dell'inaugurazione del Monumento alla Vittoria. E il povero radiocronista doveva tenere il microfono in mano come faccio io, cosa che io lo faccio per 20 minuti con il gomito appoggiato al tavolo, mentre sto qua doveva tenere il microfono alzato. Quindi fu una prova anche di resistenza fisica fare una cerimonia di 2 ore tenendo il microfono sempre tra l'altro i microfoni di allora pesavano assai di più rispetto ai microfoni di oggi. La RAI ha sede inizialmente a Gries, poi si trasferisce in via Cassa di Risparmio e viene in piazza Mazzini solo in tempi più recenti, in questo secondo dopoguerra. La RAI punta molto sulla diffusione del segnale perché, oltre all'antenna di Gries, che c'è tuttora, realizza la grande stazione di Monticolo, che per i tempi, siamo nel 1935, era una stazione di avanguardia anche come potenza di diffusione. I trentini ovviamente sentono questo come uno smacco per loro. Loro criticano sia il forte investimento del fascismo su Bolzano con le industrie, con la zona industriale, sia, come dire, il trasferimento a Bolzano di tutte le autorità militari, dai carabinieri, salvo la finanza, insomma l'esercito, sappiamo, Piacentini, le costruzioni che ha realizzato per gli alti, quello che è il palazzo oggi degli alti comandi. In particolare sentono come negativo, come dire, la presenza dell'EIAR, la RAI si chiamava allora EIAR, ente italiano, audizioni radiocircolari. La stazione di Bolzano, va detto, ebbe un'autonomia di programmazione fino agli anni 35-36. Quando questa autonomia venne tolta, l'autonomia significava trasmettere musica leggera, musica classica, notiziari, avevano un'orchestra stabile loro, la RAI aveva un'orchestrina stabile. Quando venne tolta questa autonomia, perché poi Bolzano si limitò a diffondere i programmi nazionali, ci fu una vibrata protesta dell'allora gruppo italiano, ancora modesto, perché appunto qualcosa veniva meno, insomma, si sentiva che veniva meno qualcosa che poteva concorrere anche a creare un certo sentimento di identità. Nel 43, terzo periodo, 43-45, l'Alpenvorland consente la diffusione a Bolzano di un solo giornale in lingua tedesca, che è il Bosner Tagblatt, che poi alla fine viene trasferito a Bressanone. In italiano viene consentita la diffusione solo del Trentino, che veniva stampato a Trento. La provincia di Bolzano viene chiusa, la tipografia resta lì, come dire, in balia di nessuno. Con la liberazione nasce l'Alto Adige, nasce utilizzando i macchinari e la sede dell'Alto Adige. La sede dell'Alto Adige allora era stata costruita nel 1940 dall'architetto Ronca, che è anche quello che ha poi progettato la ristrutturazione della sede di Lungo Talvera. Inizialmente il portale era una specie di calco della firma di Mussolini, perché erano tre archi, c'erano tre porte con i tre archi sopra, che in qualche maniera riproducevano questa grande sigla di Benito Mussolini, e questa portale è rimasto fino agli anni miei, insomma, quando è stata ristrutturata la sede, che poi è stata ceduta all'imprenditore Tosolini, che ha realizzato la nuova sede adesso del giornale giù alla zona industriale. Il giornale inizialmente è del Comitato di Liberazione Nazionale, che lo regge a lungo, poi dopo si trasforma in cooperativa, dove i rappresentanti dei vari partiti erano presenti a titolo personale. Uno di questi rappresentava il Partito Repubblicano Italiano, era Servilio Cavazzani, che di mestiere faceva il commerciante di vino, aveva fatto fortuna vendendo vino all'esercito italiano, aveva il negozio sotto i portici, dove c'è il vecchio municipio, lì c'è stato a lungo un negozio, una rivendita di vino, però poi si era innamorato dei giornali, devo dire che aveva fatto anche fortuna come editore di giornali, assumendo anche cariche di rilievo sul piano nazionale. È stato vicepresidente dell'ANSA, che è la maggiore agenzia giornalistica italiana, ed anche presidente degli editori di giornali locali. Questo Cavazzani, che inizialmente è presente come esponente di partito, alla fin fine è l'unico che riesce a capirne qualcosa e spaventa gli altri presentando dei bilanci disastrosi, in modo che tutti questi che erano rappresentanti di partito ma erano dentro a titolo personale, alla fin fine si liberano delle azioni. Sta di fatto che Servilio Cavazzani riesce ad ottenere la maggioranza delle azioni. Poi dopo, ecco un parallelo con la situazione nazionale, quando alla fine degli anni 60 c'è una grossa crisi, no, nel mondo dell'editoria italiana, Cavazzani si spaventa e nel 1971 vende il giornale a Letas Compass. Successivamente ci sono dei passaggi di proprietà, tra i quali anche l'EFI vuol dire la Fiat. Alla fin fine entra in ballo un gruppo locale, la Cima Brenta, la società Cima Brenta, che esiste tuttora, né? La società, dal punto di vista societario, la Cima Brenta è tuttora proprietaria della testata. Nella Cima Brenta poi a un certo punto entra Rizzoli, e poi l'editore Rizzoli entra in crisi con il grande scandalo legato alla P2, ma su Rizzoli forse bisognerà ritornare un momentino, e il giornale passa appunto alla fin fine. Dal 1990 la società Cima Brenta è detenuta con maggioranza assoluta dal gruppo L'Espresso Repubblica. C'è poi la crisi tra l'89 e il 91 per il controllo della grande Mondadori, e alla fin fine i giornali locali con la Repubblica e l'Espresso restano in capo a Caracciolo e Caracciolo Scalfari. Il giornale prende il formato tabloid nel 1988, il giornale è una fonte importantissima, penso, no? L'Alto Adige per la storia locale. Tra l'altro sui giornali locali, per tentare, io sono un po' imbarazzato, vengo qua di fianco al professor Ortoleva, insomma, per tentare una considerazione generale, per esempio, io che ho studiato per ovvi motivi l'accordo De Gasperi-Gruber, bene, l'accordo De Gasperi-Gruber Il giorno dopo la firma, il 6 di settembre, sui giornali locali ci sono tre righe, e che è il telegramma, né? Oggi a Parigi, perché allora i giornali non dicevano ieri, datavano Parigi 5, oggi a Parigi è stato siglato l'accordo tra i due, De Gasperi e il ministro degli esteri Karl Gruber. Per sapere il testo dell'accordo passano tre giorni. Allora arriva finalmente il testo dell'accordo e un articolo, un commento come Dio comanda. Cosa significa questo? Che allora erano stati fatti passi da giganti rispetto a quando i giornali erano nati, perché quando i giornali nascono, tra il 600 e il 700, tra il fatto e la notizia passava un mese, perché succedeva qualcosa a Mosca, ora che partiva un messo a cavallo, che arrivava a Francoforte, dove finalmente veniva stampato un giornale in lingua tedesca, che sempre a cavallo arrivava a Milano o a Innsbruck o a Trento o a Bolzano, dove veniva finalmente tradotto, passava un mese. Quando Napoleone muore in America, i giornali, che pur dedicarono l'avvenimento tutta la testata, erano passati tre mesi, no? Perché ora che la notizia arrivava coi velieri di allora, no? Oggi, cioè, ai tempi di Gasperi, passano già tre giorni, né, tra il fatto e la notizia. Cosa vuol dire questo? Che se uno non sapeva nulla dell'Alto Adige, poteva andare a consultare un libro, un'enciclopedia, poteva andare a cercarsi l'ambasciatore, farsela spiegare, ma come mai il gruppo tedesco, cos'è l'autonomia? Cioè, insomma, aveva tutto il tempo per farsela spiegare. Oggi i giornalisti quasi sempre vanno in diretta, ma non solo quelli della radio e della televisione, anche quelli del giornale oramai sono condizionati da questa frenesia, no? dell'attualità, sono persino schiacciati troppo sull'attualità, perché poi gli manca la prospettiva storica. Io adesso è stato riaperto con grandi feste il Pirellone, no? A Milano. Bene, quando quel piccolo aeroplanino accentrò il Pirelli, donde i lavori di restauro, sono passati per una serie di circostanze fortunatissime, bisognerebbe anzi usare un termine goliardico per definire la fortuna, ma perché c'era lì un dilettante con una cinepresa casualmente collegato con modem alla rete, insomma, l'immagine è andata in onda tre minuti dopo il fatto. E la RAI l'ha beccata perché a RAI News 24 c'era un giornalista che di mestiere faceva il navigatore, cioè andava a cercare. Poi la CNN l'ha mandato in onda quattro minuti dopo, cioè un minuto dopo, ma era più facile per la CNN controllare le reti della RAI, no? Rispetto a questo colpo di fortuna. Ma cosa volete che dicessero i giornalisti che erano chiamati a commentare la notizia? Andando lì non sapevano assolutamente nulla. C'è un processo che dice che pare che sia stata una disgrazia, però insomma è tuttora incerto, no? Potrebbe essere un suicidio. Sicuramente non sapevano, cioè è cambiato il modo di rapportarsi, né, agli avvenimenti, e questo ha cambiato anche tutta la professionalità, né? Perché in tempi miei, quando ho incominciato, si diceva: ma devi sapere un po' di storia, la storia locale ovviamente, un po' di economia, anche un po' di urbanistica per saper leggere un piano regolatore, di non trovarti proprio, e un po' di diritto, ma delle lingue da noi si diceva, sì, il tedesco era ovvio, ma adesso uno se non sa l'inglese è morto, è fottuto, non riesce a far nulla. Quello che sta a Gerusalemme, se è bravo, conosce l'ebraico, oppure l'arabo, è impossibile, giuro che non c'è nessuno che conosce tutte e due. Eppure devono dare la notizia alla radio militare, alla Rafat, eccetera. Sono tutti americani, né, quelli che li forniscono una volta le veline, oppure le fotocopie, adesso su internet, lo fanno perché sono più bravi, né? Mica perché sono più bravi, e si fanno legittimamente pagare anche per questo. Cioè gli americani, noi non pensiamo, ma controllate un po', noi siamo tutti l'America, l'Iraq, sì, d'accordo, per l'amor del cielo, però controllate i libri più letti, la classifica dei libri più letti, su 10 ci sono 5 stampati in origine degli Stati Uniti. Guardate i film più visti, penso 9, no? Sono di ma vedete i programmi televisivi, salvo adesso sta riscoperta della RAI e di Mediaset, no? Della fiction, ma insomma, Beautiful è una roba allucinante, ma lo vedono dappertutto, lo vedono in Cina, in Brasile, qui da noi, mia moglie, lo becco anch'io, no? Sì, ma no, è una roba, professoresse universitarie se lo vedono, Cossiga era un grande fanatico di Beautiful, ma perché? Perché l'industria americana nel suo complesso, cioè sono più bravi nel fare, è l'industria più importante degli Stati Uniti, non è mica l'acciaio o altre cose, è l'industria legata all'informazione. Tornando tornando a noi, la concorrenza all'Alto Adige non ce n'è stata in quel periodo, anche se ci sono alcuni momenti interessanti, perché tra il 67 e il 71 viene pubblicata a Bolzano un'edizione altoatesina del Giorno. Allora il Giorno, basta fare attenzione alle date, il pacchetto del 69 si capisce anche, no? Finanziato dal governo, il giornale Alto Adige era allora abbastanza nazionalista, quindi contrario al pacchetto, il Giorno ha come mission quella di difendere il pacchetto, però è la prima volta che un giornale nazionale fa un'edizione locale. I grandi editori si spaventano. Adesso è una cosa pacifica che i grandi giornali abbiano edizioni locali, vedete è arrivato il Corriere della Sera qui da noi, ma allora era una novità che sollevò parecchie preoccupazioni, ovviamente anzitutto nel Servilio Cavazzani, ma poi anche nella grande editoria nazionale. È come dire il tentativo di proseguire l'esperienza dell'Adige. L'Adige fa un'edizione per la provincia di Bolzano nel 1951, però sostanzialmente non riesce mai a superare la quota 1.500-2.000 copie vendute, che è bassa, una copia molto troppo bassa, no? per poter star sulla piazza. Ecco che l'Adige chiude con il nuovo editore nel 1982, dal 1988 al 2003 è sulla piazza Il Mattino, che non vende mai molte copie, nonostante sperimenti di fare il panino con la stampa e altre iniziative, compresa l'iniziativa di pubblicare un inserto in lingua tedesca, nel che gli consentiva di accedere ai finanziamenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri per le lingue minoritarie, non riesce mai a sfondare. Però è una presenza che da un lato obbliga l'Alto Adige a star sempre svelto e a correre, non adagiarsi sulla posizione di monopolio, e dall'altro lato consente un minimo di dialogo, di dibattito politico, tant'è vero che secondo me la legittimazione piena dell'MSI, Alleanza Nazionale, va fatta risalire al Mattino più che non al giornale Alto Adige, nonostante la posizione sia sempre rimasta sotto un'impostazione, come dire, di tipo nazionale. Poi dopo, in campo periodico, bisogna ricordare Il Segno, che nasce dopo la creazione della diocesi di Bolzano-Bressanone nel 1964, prima usciva a Bolzano Vita Altoatesina, che era la versione locale del settimanale diocesano di Trento Vita Trentina. Va detto, tutti esperimenti senza grande successo. Perché? Evidentemente perché l'opinione pubblica altoatesina di lingua italiana non digerisce quel che viene da Trento, e qui c'è una lunga diatriba Trento e Bolzano che risale ai tempi di Tolomei, prosegue nei nostri giorni sul trentinismo, no? Oppure cambia la parola, si diceva ai tempi del Servilio Cavazzani, filo diretto con Roma, cioè saltando appunto la possibile mediazione di Trento. Nascono poi, anche da noi, arriva la radio, la televisione, la prima televisione locale del 1977, la prima radio locale del 75. Oggi abbiamo, insomma, un discreto panorama di radio. Per le televisioni abbiamo, accanto alla RAI, solo Video Bolzano 33. La RAI, prima struttura regionale facente capo a Bolzano, ad un dato punto viene scissa, accanto alla sede di Bolzano viene creata la sede di Trento. Siamo nel 1976. Ora, c'era una vecchia richiesta di Trento di avere una piccola organizzazione, una redazione, richiesta più che legittima, ma sotto, in quel momento lì, vi ricordate Rizzoli, no? Prima dello scandalo P2, c'era un progetto che non è mai stato trovato, messo su carta, però in qualche carta di Gelli della P2 è venuto fuori qualche riferimento. Il progetto era di lasciare a Bolzano la RAI solo per il gruppo di lingua tedesca, di far la RAI, diciamo così, in lingua italiana, con sede a Trento. La stessa cosa sarebbe avvenuta in parte per i giornali, perché il progetto era, sempre editore Rizzoli, di fare un centro stampa unico, una tipografia unica, che stampasse tutti e due i giornali, l'Alto Adige solo per Bolzano, l'Adige solo per Trento, proprietà sempre Rizzoli. Poi tutto sto, devo dire che c'entro anch'io in questo, perché insomma quando poi ho tentato di costruire, ma com'è che io sono arrivato all'Alto Adige, a dirigere nel 76 l'Alto Adige, poi dopo quando avevo già lasciato l'Alto Adige era passata tutta la Buriana e insomma sono riuscito a capire che potevo essere anch'io un possibile, seppur modesto, tassello di questo grande, grande, grande mosaico che crolla con sostanzialmente con la P2 e poi non viene più ripreso. Va citata, va ricordata l'ANSA, che è un notiziario regionale, sia in italiano sia in tedesco. Va ricordata anche l'Agenzia Italia, che oggi non c'è più, ma che allora aveva un bollettino in lingua italiana e un bollettino in lingua tedesca. Era un bollettino per gli addetti ai lavori, però, per esempio, veniva inviato a tutte le ambasciate italiane nel mondo. Era la fonte principale di informazione per la nostra diplomazia su quel che avveniva in Alto Adige e sull'orientamento del governo italiano per quel che riguarda l'Alto Adige. Quindi una cosa di grande portata, anche se allora la diffusione era fatta col ciclostili e robe del genere. Il sindacato regionale che si stacca da Venezia nasce nel 71-72, l'ordine regionale nasce nel 1972. Direi che il settore, pur con i limiti, dobbiamo sempre realisticamente far riferimento al mercato, né? Il mercato di lingua italiana in provincia di Bolzano è quel che è, anche come possibilità pubblicitarie, ma insomma con questi limiti direi che il settore presenta una qualche vitalità, con qualche fenomeno anomalo, tipo il giorno se volete, ma insomma accanto all'Alto Adige c'è sempre stata qualche altra presenza. Oggi c'è il Corriere della Sera, che in qualche maniera vende 4.000 copie, né? In provincia di Bolzano, già li vendeva 2.500 per conto suo, ma insomma ci ha aggiunto le copie probabilmente del mattino, sta di fatto che 4.000 copie è già una voce interessante anche per il bilancio della tiratura del Corriere della Sera, della vendita del Corriere della Sera. Oggi, rispetto al passato, cosa avviene in provincia di Bolzano? Che abbiamo delle aziende molto strutturate perché l'Alto Adige fa capo al gruppo Caracciolo, De Benedetti Caraccio, con qualche limite, perché per esempio la grafica è uguale per tutti i giornali del gruppo, né? Per il Mattino di Padova, per il Giornale di Livorno, quello di Pavia e quello dell'Abruzzo che si stampa a Pescara, è una grafica che non è gradita per esempio dal pubblico locale perché la trova meno leggibile rispetto a quella che era del Mattino o dell'Alto, non può cambiarla perché alcune pagine sono comuni, cioè tutto il sistema ormai è comune, alcune pagine sono comuni perché per lo sport invernale è Bolzano che detta la danza per tutti i giornali del gruppo, ma per il calcio sicuramente non è Bolzano, sarà un giornale di Bologna, non so, insomma la stessa cosa per le pagine di politica nazionale e di politica internazionale. La stessa cosa avviene per il Corriere della Sera, ovviamente fa capo al Corriere della Sera, la RAI risponde a logiche diverse, non assolutamente locali, e voglio dire, questo si paga, né? Non avere più un'editoria locale, di origine locale, in qualche maniera si paga, perché gli interessi del gruppo L'Espresso e della Rizzoli Corriere della Sera non sono riferiti al Durwalder o al Pickler Rolle, né? O al Salghetti, hanno riferimenti interessanti ma diversi, insomma per loro, per esempio per il Corriere della Sera l'importante è arginare la prevalenza della Repubblica e lo fa attraverso le edizioni locali, né? Che nel Veneto, qui adesso andrà anche nel sud dell'Italia, sono 5.000 copie qua, 8.000 là, alla fin fin vengono fuori quelle 50.000 copie che consentono al Corriere della Sera di superare la Repubblica che altrimenti l'avrebbe già battuto, per i pubblicitari l'ha già battuto sul piano nazionale. In ogni caso, tenendo anche presente il Dolomite, guardate che è un fenomeno europeo, né? Perché le vendite del Dolomite sono spaventose, il carico di pubblicità che ha il Dolomite, l'indice di penetrazione è il 95% delle famiglie di lingua tedesca, poi probabilmente non è vero perché molte copie vanno negli uffici, però insomma l'indice di penetrazione è il massimo raggiunto da qualsiasi giornale in Europa, cioè una cosa altissima, è un'azienda che produce soldi in continuazione, tant'è vero che ha comprato il giornale di Innsbruck, né? Cioè voglio dire, ha comprato la Tiroler Tageszeitung, che dal punto di vista aziendale è un prodigio, né? Sul piano pubblicitario, mentre sul piano dell'informazione guarda a nord, Sul piano pubblicitario, guarda a sud, sono già arrivati a Verona, né a Trento hanno una grossissima agenzia di pubblicità che pubblica un giornale gratuito che è diffuso in 40.000 copie, uno sproposito se volete rispetto alle nostre tirature normali. E questa è la grande potenza della tesia, che risponde poi a una logica italiana dove chi fa l'editore fa anche politica, che è un fenomeno tipicamente italiano. In Austria non c'è, né? Questi però si dimostrano sotto questo aspetto italiano, insomma, perché già da Gamper e Folger a Lebner papà, a Lebner figlio, hanno sempre fatto politica, come a Trento De Gasperi, Battisti, il Flaminio Piccoli e anche gli attuali, l'ex presidente della regione Andreotti, Giacomo Santini, parlamentare europeo della, sono tutti giornalisti. Altrove è impensabile che uno che dovrebbe essere al servizio di tutti improvvisamente si scopra, legittimamente per l'amor del cielo, ma al servizio di un partito, di una parte, no? C'è la contraddizione rispetto alla figura ideale del giornalista, ma da noi è sempre stata così, fin dai tempi di Cavour, che prima di essere il Cavour che ci tormentava sui banchi del liceo, la prima cosa che fa Cavour, fonda un giornale, né? La stessa cosa La Nazione, no? Il barone Ricasoli, quando si pensa che la capitale si sposti, lui La Nazione, che anche era un programma politico, ma poi dopo, voglio dire, Gramsci, e probabilmente dice meno oggi per la cultura di sinistra, ma nasce come giornalista, Mussolini nasce come giornalista, non parliamo poi di Spadolini, Andreotti, Veltroni, D'Alema, sono tutti di professione, campano di professione facendo i giornalisti. È un fenomeno tipicamente italiano, questa commistione, che altrove non c'è, in Germania non c'è, in Austria non c'è, in Francia non c'è, la Francia è tanto vicina a noi per tanti altri motivi, in Inghilterra è addirittura impensabile. Detto questo, io non mi sento di dare una valutazione in conclusione sui nostri giornali locali, però diciamo, si può dire questo con tutta onestà, che rispetto a quel che c'è in giro, a Verona, insomma, i nostri giornali in qualche maniera sono abbastanza belli, insomma, sicuramente rispondono, insomma, devo anche difenderli perché so ben che la gente si lamenta, però rispondono, ci sono tante notizie, né? Perché le notizie, non c'è dubbio, se altrove, a Siena, a Pescara, facessero così, dessero tante notizie come danno questi giornali locali, persino troppe, né? Perché, voglio dire, a Rovereto ci sono 6 pagine, ma non è mica possibile che ci siano 6 pagine di, seppur formato tabloid, su Rovereto, 4-5 su Riva del Garda, siamo fuori dal mondo, però insomma c'è su tutto e la gente si identifica, né? Perché poi oltre alle notizie ci sono le conferenze, le cose liete, ahimè i necrologi questi sono pieni, fanno soldi, muore qualcuno, l'amministratore delegato dei due giornali fa festa, no? Perché sono pagine intere di pubblicità carissima, no? Oltretutto uno arriva lì, poveretto, se dovesse reclamizzare un'automobile tratta, no? Chiede lo sconto, mentre in quelle occasioni lì, anzi, quelli della Manzoni, che è la concessionaria dell'attuale, dice già che è qui, perché non fa anche il necrologio sulla Repubblica? In realtà muore mia zia, non mi interessa nulla farla sulla Repubblica, no? Perché mi interessa la cerchia di lettori qua, però uno è lì in quel momento, magari non ci pensa e paga l'ira di Dio, potrebbe comprarsi un appartamento alla fin fine, insomma, con quel che paga. Anche le vendite sono buone, diciamo che il Trentino Alto Adige è la regione dove si legge di più, dove si vendono più giornali, non diciamo che si legge, si vendono più giornali, è vero che c'è anche l'apporto del turismo, tant'è vero che il giornale in tedesco più venduto è la Bild-Zeitung, non perché i tirolesi comprano la Bild-Zeitung, sono i turisti tedeschi che l'acquistano, però insomma è anche le altre regioni che seguono, la Liguria, il Friuli sono regioni turistiche, è il posto dove si legge di più. Se la media di copie venduta per 1.000 abitanti è in Italia 105 copie, che è una media bassissima, c'è dietro di noi la Grecia, il Portogallo, e neanche adesso vediamo, dal 1° maggio forse ci sarà qualche stato dell'est, il Portogallo, questo spiega perché Giolitti, che andava in giro a piedi allora senza scorte col segretario, era tutto vestito con una palandrana nera, il cappello a tuba, quando passava uno continuava a scappellarsi, e il segretario diceva, ma eccellenza come mai si scappella? Ma quello è l'ambasciatore del Portogallo, è quel che le pondrei in tutte le classifiche rispetto a noi, né? La cosa puntualmente si ripete anche oggi in tutte le statistiche, sia sul prodotto interno lordo, sia, ahimè, anche sulla lettura dei giornali. Da noi sono 170 copie su 1000 abitanti, le copie vendute. Tenete presente che il giornale locale da noi si moltiplica tranquillamente per 7 lettori. C'è una copia dell'Alto Adige eletta da 7 lettori, la stessa cosa per l'Adige. Anche perché da noi c'è la tradizione vecchia Austria di avere i giornali nei bar, no? E anche nelle osterie di paese, c'è nel Trentino le piccole bettole di paese c'hanno dentro due giornali, e non è che li leggono, però insomma li sfogliano almeno i titoli. Anche gli ascolti del telegiornale regionale della RAI sono in percentuale i più alti d'Italia, con l'edizione delle 19:35. Sono leader gli ascolti anche nell'edizione delle 14, un po' meno, perché le 14 per noi non è un orario, insomma, va bene per la Basilicata, per la campagna, da noi insomma le 14 la gente è di nuovo uscita di casa, non è che sia lì che... Ma il telegiornale delle 19:30 c'ha una penetrazione incredibile, questi della RAI a volte non lo sanno, né di aver dietro tutta l'opinione pubblica del Trentino Alto Adige. Per il resto penso che adesso ci sia, rispetto al passato, ci stia formando, sia pur con tanti problemi, ma una buona classe di giornalisti. Qualcuno incomincia a dedicarsi anche alla ricerca storica, come il Frangipane, il Perez, tra l'altro confermando un vecchio aneddoto, che dicono che gli storici sono dei politici mancati e i giornalisti sono degli storici mancati. Comunque qualcosa è sicuramente maturato. La stampa, io adesso la scopro più come protagonista attivo, la scopro come fonte storica, è una fonte da prendere con le molle, però in certi casi è una fonte insostituibile. Stranamente sulla provincia di Bolzano c'è una buona documentazione all'archivio centrale dello Stato, perché il Partito Nazionale Fascista teoricamente conservava tutto, anche le fatture per... ho ricevuto 5 distintivi, no? E dove la macchina della federazione ha fatto 10 chilometri. E dentro questa mole incredibile di documentazione, che a volte non dice neanche nulla, però ci sono dentro tutti i dati sui bilanci della provincia di Bolzano, dell'Alpenzeitung, e anche sulle tirature, e ho avuto la fortuna di metterci sulle mani, e li ho anche pubblicati a suo tempo. Ovviamente il giornale come fonte storica, sì, insomma, bisogna prenderlo con le molle, però penso, no, professor, che lei mi conforti, che oramai anche la televisione, anche le registrazioni televisive oramai... oramai diventano cose insostituibili. Secondo me anche la provincia di Bolzano dovrebbe farsi un progetto di dire: intervisto tutti, prima che i protagonisti, per via della logica naturale, insomma, scompaiano, ma insomma, di metter via. Nel Trentino stanno facendo questa cosa, si chiama Progetto Memoria, tentano di recuperare tutti quelli che hanno fatto la Seconda Guerra Mondiale, la Resistenza, oppure anche dall'altra parte, stanno diventando pochi, ma insomma avvicinarli, filmar quel che dicono. Una volta si registrava, prima ancora, adesso si usano questi, insomma dobbiamo, credo, abituarci, soprattutto penso dovrebbero abituarsi chi vive nella scuola, no? a utilizzare sempre più questi strumenti moderni, non solo il vecchio giornale cartaceo, anche se poi la gente ha sempre bisogno di avere in mano le carte, però insomma pian pian c'è anche tutti questi nuovi strumenti e soprattutto queste enormi possibilità offerte dalla rete, insomma, no? Dove si trova tanto ciarpame, purtroppo, però si trovano anche tante cose, come ha dimostrato quel giovane giornalista della RAI che, seguendo, è andato a trovare l'aeroplanino che beccava il Pirellone. Grazie.